America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Mario Platero, sono in Italia per qualche giorno, ma partiamo subito col grande evento del fine settimana. Accompanied by an armed forces chorus, welcome Grammy Award winner and soprano superstar Renee Fleming. Oh, say, can you see? Beh, il grande evento, lo avete capito, è il Super Bowl. Avete sentito Renee Fleming che ha cantato l'inno nazionale americano. Apro su questo perché il Super Bowl è davvero una grande festa americana. Non ci sono più repubblicani o democratici, non c'è più polarizzazione. C'è veramente tutta l'America incollata davanti ai teleschermi. 80.000 persone allo stadio dei Giants e dei Jets a East Rutherford in New Jersey, parate di militari, bandiere, collegamenti con le caserme in Afghanistan, insomma è veramente una grande immersione in quello che è l'America che conosciamo, dove la sfida diventa soltanto sportiva fra le due squadre. Devo dire, ieri sera però non c'è stata sfida, perché come forse avrete visto dalle notizie di oggi, hanno vinto a man bassa i Seahawks di Seattle, infliggendo una umiliazione ai Broncos di Denver, 43-8 il punteggio. Devo dire, sono stato sulla notte per vedere la partita, molto bella sotto certi punti di vista, ma non una delle classiche Super Bowl dove si arriva col patema d'animo fino alla fine per capire chi vince. Ma ci sono un paio di elementi storici che intervengono. Intanto Seattle è una squadra molto giovane, nasce negli anni 70 ed è stata poi rilanciata da Paul Allen. Paul Allen è il cofondatore di Microsoft con Bill Gates. Paul Allen, molti di voi non lo ricorderanno, non lo conosceranno, perché il frontman di Microsoft era sempre stato ed è tuttora Bill Gates. Ecco, un elemento interessante è che Paul Allen, che ieri era allo stadio, ha avuto il suo grande momento di gloria, si era ritirato poi anni fa da Microsoft, ma ha lo stesso una fortuna personale di 15 miliardi di dollari. L'altro elemento è che Seattle per la prima volta si aggiudica il Super Bowl, che è la finale del grande torneo del football americano. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 48 Halftime Show. Metatempo, il concerto tradizionale di metatempo, Bruno Mars. Beh, devo dire, è stato un concerto diverso rispetto al passato, meno spettacolarità, però un concerto molto bello. Vi do alcuni elementi di che cosa significa questo Super Bowl, perché ci sono 100 milioni di spettatori, l'evento più seguito, l'evento televisivo più seguito in America. Si consumano 4.000 tonnellate di guacamole, 14.000 tonnellate di patatine, 11 milioni di pizza a domicilio. Insomma, un grande stimolo per l'economia americana. Si dice che per l'economia locale del New Jersey lo stimolo sia stato addirittura di 600 milioni di dollari. Voglio parlarvi però dell'altro grande evento parallelo al Super Bowl, e cioè degli spot pubblicitari carissimi e devo dire quasi tutti bellissimi. The world is full of giants. Then we walk out of the shadows, quietly walk out of the dark. Spot della Maserati. Devo dire, Chrysler ha dominato, tutte le auto hanno avuto una gran quantità di spot, ma la neonata Fiat Chrysler ne ha avuti addirittura tre, uno appunto sulla Maserati, l'altro sul Jeep, quello sulla Maserati devo dire bellissimo, con questa ragazzina Kwanza Wallace che era stata nominata agli Oscar nel 2013 come miglior attrice protagonista per il film Re della Terra Selvaggia, ha avuto un impatto forte, Twitter l'ha rilanciato moltissimo. Vi ho detto poi la Jeep e poi il grande spot centrale con Bob Dylan. So let Germany brew your beer. Let Switzerland make your watch. We will build your car. Bob Dylan ha fatto la pubblicità per Chrysler 200, in tradizione Chrysler riesce sempre, ma dietro c'è questa grande così fantasia creativa di Marchionne, riesce sempre a lasciare il segno, aveva fatto anni fa Eminem, forse ve lo ricorderete. Bob Dylan in sostanza dice: i tedeschi fanno bene la birra, gli svizzeri gli orologi, a Detroit si fanno le automobili. Ecco, immaginate Bob Dylan con questo spaccato di storia americana in cui c'è tutta la mitologia americana, le campagne, le canzoni, il costume, gli hamburger, gli hot dog, eccetera, eccetera, e poi confluisce su Detroit per la pubblicità di questo nuovo modello della Chrysler 200. Devo dire, molto bello. Complessivamente il calcolo è che Chrysler Fiat abbia speso 25 milioni di dollari, perché ciascuno spot costa 4 milioni di dollari al minuto. Ma la novità di questo Super Bowl è che è stato caratterizzato da qualche polemica politica. SodaStream, un produttore israeliano di bibite gasate, o meglio di una macchinetta che fa le bibite gasate, che è successo che hanno ingaggiato Scarlett Johansson per fare lo spot pubblicitario. Se non che Scarlett Johansson è anche membra di Oxfam Global, una ONG che tutela i diritti dei palestinesi, ha fatto un comunicato di protesta dicendo che SodaStream, produttore appunto, come ho detto, israeliano, ha questa sua fabbrica nei territori occupati, è illegale, è illegittimo, questo spot pubblicitario non doveva apparire e dunque ci dovrebbe essere un boicottaggio, incluso quello di Scarlett Johansson. Scarlett Johansson è nel consiglio di Oxfam Global, è stata una delle portavoci e ha dato le dimissioni appena due giorni fa per protesta sulla protesta, dicendo che non si trova più d'accordo con questa ONG e che invece sostiene la causa di SodaStream, perché bene o male porta lavoro invece ai palestinesi. Prima polemica. Seconda, Bank of America aveva già fatto una donazione alla fondazione Red, alla non profit di Bono, che così cerca di aiutare i più poveri nei paesi emergenti, e la novità è che ha sponsorizzato la nuova canzone, consentendo a chiunque facesse un download di farlo gratuitamente, e poi avrebbe pagato a questa fondazione $1 per canzone scaricata. Beh, qualcuno ha detto, ecco, Bono ha fatto il patto col diavolo, le banche, eccetera, eccetera. In realtà, le fondazioni servono a quello, le banche dedicano una gran quantità di denaro alla buona causa, e Bono ha confermato, se mi danno delle donazioni, per me va benissimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho parlato di Bono, vi ho parlato di Invisible, e dunque la dedichiamo, facciamo anche noi un po' di panna montata, scaricatela, vediamo se siete in tempo per farlo in modo gratuito. Degli YouTube, Bono, Invisible. Da Milano è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.